Avevamo visto che tutto funziona secondo un Hesbon. Hesbon, una quenta, un certo, come dire, calcolo. E questo funziona anche in base al proprio comportamento della persona. Abbiamo fatto la metafora che abbiamo citato dalle opere della Kabbalah della ruota che gira, che in aramaico abbiamo detto tikla o takla, e che questo calcolo va in base a questa ruota che gira, ma ovviamente non è la ruota che decide come si gira. Ora vediamo un po' questo sistema. Vehine hamania hamenia et atikla. Ciò che fa muovere e girare questo sistema, questa ruota, un mesabev sibuva galgal sheyem itapech, che questo giri in maniera anche da una volta così e una volta così, le faolam di bnei nasha, in accordo, in, diciamo, di conseguenza al comportamento dell'umanità. Ovviamente non è la ruota stessa che, come dicevo, cioè cosa c'è dietro? Uprinat kava midà de chokhmah, livello spirituale, quando parliamo delle sfere divine, dei mondi spirituali, il livello legato a questo calcolo si chiama il kav hamidà, e cioè la misura, kav è la riga, come dire il righello che misura, no? Che dà la misura, che è legato al livello di Chochmah. Shehu hamehapech et ha galgal lefi haitaruta deletata. Che è proprio questo che deriva dalla Chochmah, dalla saggezza divina, che fa girare la ruota in base al itaruta deletata. Cioè, in aramaico, in ebraico si direbbe hit orerut, risveglio, millemata, dal basso, cioè quello che parte dalla persona, dall'umanità, il suo risveglio, la sua apertura verso l'alto ha un effetto nell'alto, in base a quello può cambiare la situazione. Le fische bechokhma hi hamedida sheyeh beofen kach vekach dafka. Poiché questo modo di misurare deriva proprio, questa precisione, questa quanto è appropriato, quanto non è appropriato, deriva proprio da Chochmah, perché Chochmah è la stessa fonte dalla quale si iniziano a definire le cose. Cos'è Chochmah? Cos'è saggezza? Vuol dire definire, chiarire, capire. Per questo si dice, come adesso diremo, che la Torah deriva dalla Chochmah di HaKadosh Baruch Hu. Cos'è la Torah se non una definizione chiara delle cose? Questo è un comportamento voluto, questo è un comportamento non voluto, questa è una mitzvah negativa, questa è una mitzvah positiva. Tutto questo è legato al concetto e deriva dal livello di Chochmah. Hainu, sheye kiyum HaTorah u'mitzvot, che attraverso l'adempimento della Torah e delle mitzvot, in entrambi i sensi, come dicevo, liot surmerà, da una parte andar via da ciò che è negativo, beshassa lota a sé, attraverso le 365 mitzvot negative ve anafehen e i loro derivati, ve liot a sé tov, e d'altra parte invece fare il bene attraverso le Bekiyum Ramach Mitzvot Asse, le 248 mitzvot positive, Ve'anafehen e i loro relativi derivati, Kmoshenit Berleil, come abbiamo già un po' spiegato prima, Ve'lachen Nimshach Misham Tenuata Galgal. Cioè la stessa fonte dalla quale derivano le regole, diciamolo in maniera semplice, è la stessa fonte dalla quale poi arriva la ruota. Deriva quello che lui chiama qui il flusso divino dall'alto verso la creazione. E insieme il regolamento con il flusso. Ok? Velachen nimshach misham tnuat agalgal, proprio per questo che le due cose derivano dalla stessa fonte, hanno la stessa fonte, teim mekayemim Torah u mitzvot, se si mettono in atto la Torah e le mitzvot, allora az tekabel hammalchut, allora la malchut, cioè il livello legato al, direttamente al flusso che viene verso il mondo, regno. Se vi ricordate, abbiamo parlato di Malchut come l'ultimo delle dieci Sefirot, quello dal quale il flusso deriva direttamente alla, alla realtà. Allora, nel caso si mette sulla parte corretta, allora la Malchut riceve il suo flusso Mikava Yamin, cioè dal cosiddetto lato destro, cioè del Chesed, della bontà, Vetie Ashpata Tov, e c'è un flusso di bene. Vehainu, ovvero sia, Shetiye Hanaga Birchinat Chesed, che il comportamento dall'alto è con una maniera di Chesed, una maniera di benevolenza. Al contrario, Vekasher Chas Veshalom Lo Achsher Dara, se il comportamento della generazione non è meritevole, allora ti Hanaga Birchinat Kura, allora è chiaro che la ruota si gira verso la Gevura. Cioè da Chochmah deriva attraverso Gevurah al Malchut, invece durante, quando invece è meritevole, allora dalla Chochmah deriva attraverso il Chesed, attraverso la parte destra, per così dire, al Malchut. E quindi questo calcolo, questo Cheshbon, è un doppio Cheshbon, adesso lui spiega. Primo, il Cheshbon è di calcolare le azioni delle persone, i loro comportamenti. Cioè calcolare nel senso prendere in considerazione e fare un resoconto, Cheshbon, può voler dire anche questo. D'altra parte poi Cheshbon, la seconda parte del Cheshbon è il Cheshbon riguardo al flusso, che poi sarà versato verso l'umanità, verso il mondo. Quindi va in due direzioni il Cheshbon. Uno è una contabilità dove si vede ciò che entra, cioè il comportamento che viene, che arriva, e la contabilità di quello che esce, come in qualsiasi contabilità, ci sono due direzioni. Prego. Ma questo conto avviene a Rosh Hashanah o arriva a Tizzor? Aspetta, adesso arriveremo a questo. Solo un secondo, no? Ottimo, perché ne abbiamo anche parlato, giusto? Ok, allora sono due aspetti a questo Cheshbon. Zeu inyana Cheshbon b'shtei dvarim, ci sono due aspetti. Aleph, il primo delle due, Beov de Hon di Bnenasha, considerare, diciamo fare una valutazione del comportamento delle persone. Le mata, qui sotto, in questo mondo. Im mukhsharim ma'asehem, se i loro atti sono accettabili, diciamo, al pi hamedida de chokhmat Torah, secondo quanto delineato dalla Chochmah della Torah, quindi dalla saggezza in realtà di HaKadosh Baruch Hu che si esprime nella Torah. E la seconda è l'uscita, cioè in che maniera si fonderà in questo flusso l'insieme di Chesed e Gevurah, la fusione, perché non è mai solamente Chesed, solamente bene, o solamente Gevurah, solamente rigore e disciplina, è sempre una fusione delle due. La domanda è il volume, le proporzioni di qual è esattamente la proporzione tra Chesed e Gevurah, e cioè appunto come rende più esplicito, im tiye hit gabberut kava yamin, se dal lato destro del Chesed sarà predominante, shetiya nagabi b'chinat Chesed o chas v'shalom, oppure mai sia al contrario. Ecco che la Mishnah che lui cita adesso dice nel Pirkei Avot, il trattato delle massime dei padri nella Mishnah, cosa c'è scritto? Veda, sappi, shehakol lefia cheshbon, che tutto segue un cheshbon. Cioè non c'è nulla a caso, c'è un cheshbon dietro a tutto. Rashi spiega sulla Mishnah, Peresh Rashi, achat leachat nimtzo cheshbon. C'è scritto, uno a uno si aggiunge una cosa, un'altra cosa, per esempio una monetina si aggiunge ad un'altra monetina fino ad arrivare a un grande cheshbon, no? Allora, Rashi dice, ogni cosa può arrivare, ogni cosa che può sembrare piccola, alla fine può arrivare a un grande cheshbon, a un grande calcolo. D'altra parte, c'è un cheshbon, cioè una valutazione molto specifica, va in due direzioni. Spiego. Da una parte, ogni piccola cosa che noi facciamo nel positivo è presa in considerazione. Quindi, come l'esempio della monetina, una monetina, un'altra monetina, alla fine diventa un patrimonio. Allora, anche nei nostri comportamenti è così. Non bisogna disprezzare un piccolo comportamento positivo, perché si accumula tutto a un grande cheshbon ed è tutto preso in considerazione. L'altra faccia di questa stessa moneta è che anche ogni altro tipo di comportamento viene preso in considerazione. Di conseguenza i maestri dicono nel Talmud, nel trattato di Chagigah, Moshe amru rabotenu zichronam libracha, al pasuk, sul versetto che è scritto nel profeta di Amos, magid le Adam masecho, lui il Signore potrà dire all'uomo qual è la sua parola, cioè, i maestri dicono che vuol dire? La sua conversazione, siach, sicha, a cosa si riferisce? Allora i maestri dicono, a Kadosh Baruch Hu alla fine di tutto ti potrà dire ogni cosa che tu hai detto nella tua vita. Non va persa. Qualsiasi cosa, anche una cosa leggera, il Talmud fa l'esempio, dice, Afilu sichashe ben ish le ishto, anche una semplice conversazione tra marito e moglie, che è la cosa più leggera, più naturale, eccetera, è tutto scritto, è tutto preso in considerazione. Averoce Adam dashba kavav, il secondo esempio, cioè, quando diciamo ogni cosa viene presa in considerazione anche dall'altro lato, anche un peccato averot, che una persona li calpesta, perché sono peccati leggeri, diciamo così, sono cose piccole, allora non lo prendiamo noi non lo prendiamo in considerazione. Però in alto è tutto preso in considerazione, sia da un lato che dall'altro lato. Questo è un modo di considerare quanto dice la Mishnah, hakol lefi cheshbon, tutto va secondo un cheshbon. Poi adesso c'è un'altra spiegazione. No, cosa, Rav, ma tutto, cioè questo discorso sul cheshbon riguarda l'individualità o anche la collettività? Oh, molto bene. Oh, vediamo la seconda spiegazione della Mishnah e poi entriamo proprio in questo discorso qua. La seconda spiegazione della Mishnah che dice tutto va secondo il cheshbon è questo. V'yesh mefarshim ha-Mishnah, c'è chi spiega la Mishnah in maniera diversa. Veda she'akol lefi ha-cheshbon, sappi che tutto segue il cheshbon, cioè che è relativo anche alla persona. Cioè, she'im shtei anashim yechetu chet echad, se due persone inciampano nello stesso peccato, uno sta qui, fa questo peccato, e l'altro sta da un'altra parte, in un'altra situazione, fa lo stesso peccato. Quando noi diciamo tutto segue un cheshbon, vuol dire è relativo alla persona e alla circostanza, e non solamente all'atto. Può darsi che due persone fanno lo stesso peccato, ma la conseguenza delle loro azioni è diversa in base al livello della neshama della persona, a quanto potrebbe essere stato difficile o facile la situazione nella quale si è trovata. Scritto pure ieri nella... Tutto rientra, vero? L'abbiamo parlato ieri nella Torah del giorno, esatto. Bravissimo. C'è che fi godel yikrat erech haneshama shel ze. Se una di queste due persone ha un livello di neshama molto elevato, allora inciampare in quel peccato ha un rilievo più importante rispetto a quello che magari ha una neshama più nascosta, più meno elevata. Si inquadra nella circostanza e nel soggetto. Esattamente, si inquadra la circostanza, il soggetto, quindi è tutto le aspettative che si ha dalla persona, esattamente, giusto? Quindi, col ze, tutto ciò, quanto abbiamo descritto questa ruota e questo cheshbon in tutti i suoi sensi, è tutto quando andiamo secondo l'ordine delle cose predisposte, seder ishtal shelut, quello che noi chiamiamo la catena di montaggio, tra virgolette, che porta dall'alto verso il basso. Ok? Ora, se è collettivo o specifico, ci sono entrambi i binari. Certo. Sì, però ci sono anche... Cioè, parliamo di quello che noi viviamo. Mm-hmm. Ci sono degli eventi sì. che accadono, che sono individuali alla persona, ma ci sono anche degli eventi che sono mondiali. Esattamente. Diciamo mondiali, ok? E questi... Cioè, vuol dire che c'è un Heshbon mondiale, c'è un Heshbon individuale. Esattamente, è la somma magari. Per questo si lega anche a quello che diceva Leonardo riguardo Rosh Hashanah. Esatto. C'è scritto che in generale è tutto predisposto a Rosh Hashanah, ma come abbiamo visto anche le altre volte, c'è scritto anche Adam Nidon Bechol Yom. È vero che c'è una predisposizione generale a Rosh Hashanah, ma poi ogni giorno c'è un altro piccolo Rosh Hashanah, c'è un'altra piccola decisione. Se effettivamente quello che è stato predisposto, effettivamente poi... arriva, e come dici, al ministero sono arrivati i fondi. La domanda è se arrivano al comune e all'assessorato okay. che si occupa di quel parco che deve dare il concime a quegli alberi. Perfetto. E quello ogni giorno bisogna vedere se il funzionario ha firmato o no. Quindi, cioè, quindi per quanto c'era riguarda quello individuale... No, per finire, per capire sì, bene. Sì. Per quanto riguarda il discorso individuale dipende da noi, quindi dal nostro comportamento, da quello che facciamo, dalla crescita sì. anche nostra, perché certo. la nostra crescita... Ok, invece per quanto riguarda il discorso collettivo, allora che si fa? C'è una bilancia, una grande bilancia? Cioè, quello che dico io, esiste una grande bilancia dove scusa. Poi vengono pesati le note, cioè il bene, no il bene e il male, però come vabbè, le azioni positive e le azioni negative... Non scrivono poi. Le azioni negative e le azioni positive sono messe su una grande bilancia. Dove per, anche per la collettività, no, dici? Io parlo, vabbè. Ok, il primato, sì, il viene privato, tutto preso in considerazione. Per sì. la collettività, per poi quello che può scaturire, no? Nel panorama mondiale. Sì, sì. Che cioè, ipoteticamente, dico, una grande bilancia dove ogni nostra azione poi viene pesata rispetto a quelle negative e poi c'è un... Sì, il diluvio sì. è stato... Sì, allora, un attimo. Allora, tu dici che il diluvio era c'è così, però era una cosa generale. Il tuo comportamento influisce in quello certo, mondiale. È quello. Allora, parte sempre da te. È chiaro che le due cose sono legate, però è anche chiaro che ci sono due binari, diciamo. È difficile scindere proprio in maniera netta l'una dall'altra, sì, no? Perché alla fine è vero che c'è anche comunque... il... No, scusa, Rabo, sì. perché sennò poi non... Finisco di farti l'ultima domanda, così almeno magari poi... Cioè, è vero che dipende da me, anche sì. la collettività che è legata. Però io posso anche subire una negatività della collettività quando magari e tu sei invece meritevole. Che io invece posso essere... Tu sei meritevole, però la collettività è colpevole. Allora subisci dire. Anche tu. Io volevo arrivare qua. Cioè ok. Non c'è collettività in questo caso. Perché ti giudicano uno per uno le sue azioni. Poi sono gli altri che possono giudicare te o le cose. Però Elohim ti giudica te le tue azioni. Sì, poi che tu fai parte da un'altra comunità. Questo volevo dire. C'è anche una responsabilità reciproca. In questo mondo non stai da solo. In questo mondo non stai da solo. E non vuol dire, no? Però giudica te, non giudica la madre, perché dopo subentra no, che uno ha ragione e l'altro ha torto. E allora come fanno? Ok. Stai dicendo la stessa cosa. Allora, no. Facciamo ancora un paragrafo, un po' si chiarirà. Da lì è scaturito, scusi. Sì. Da lì è scaturito il nazismo. Che hanno detto gli ebrei sono tutti una massa, ammazziamoli tutti. Da okay. lì, da questa cosa. Beh, è chiaro che non bisogna prenderla in maniera, un fascio, in maniera errata. E questo è la allora, l'ebraismo ci insegna... Ragazzi, scusate un secondo. L'ebraismo ci insegna che... esiste una responsabilità reciproca, nel senso che se qualcuno sbaglia è anche mia responsabilità correggere. Basterebbe questo per essere... No? Esiste questo concetto ed è anche un concetto di base. Leone, che volevi dire qualcosa? No, prego. No, prima quello che voleva dire... Ah, la stessa cosa? Ok. Allora, in generale, qui stiamo parlando... di un Heshbon, di un calcolo specifico alla persona, al suo comportamento, ma è un rispecchiare di quello che avviene al senso anche collettivo, ok? Quindi è chiaro che spesso possono realizzarsi delle situazioni dove le due cose vanno in conflitto, dove il comportamento del singolo è diverso rispetto al comportamento della collettività. Però questo vuol dire vivere in una società, questo vuol dire cercare di, anche attraverso il proprio comportamento, migliorare la società nella quale uno vive. È vero che esistono anche dei casi estremi. Il Rambam dice che, visto che la vita sociale per noi esseri umani è molto importante, se ci si trova, perché siamo esseri sociali, se ci si trova in un luogo, per dire l'altro estremo, no? Se ci si trova in un luogo in cui è quasi tutto corrotto, dove non c'è la possibilità di avere una vita sociale condividendola con persone corrette, allora Rambam, il Maimonide, scrive: è meglio andare a vivere nel deserto in una caverna, che se non esiste una società buona, allora bisogna andare a vivere in una caverna. Ok, questo è un modo di esprimere la cosa in maniera estrema, per dire quanto incide la società sulla persona. Il nostro compito è di incidere sulla società. Ok? Sì, e poi va anche definito bene cosa vuol dire collettività, perché collettività può essere in molti sensi, come i cerchi di concentrici di un, di una un, persona, di un, quindi anche di un, di un, che potresti anche salvare in un momento comunque così, anche sì, se subisci la cosa, non è detto che ne risenti fino a, diciamo, guarda, sia un... Ma quindi ci avete la storia di Lot. Dove stava Lot? Stava in mezzo alla corruzione totale, a Sodoma e Gomorra. Era l'unico. E lì tutta anche lui era un po' corrotto. Vabbè. Quindi vabbè. No, manco lui. Perché è andato lì? Perché è andato lì, Lot? Per fare i soldi. Gli piaceva. Gli andava bene un po' il loro comportamento. Però lui è stato salvato perché ha avuto uno zio importante, esatto, come a Roma anche abbiamo avuto così. Era raccomandato. Però... Dunque è sbagliato, non ha fatto la spia per... è tutto sbagliato la nostra percezione di Lot qua. Perché qual è la nostra percezione di Lot? No, perché dice, nella Torah non c'è scritto che lui era perfetto. Ma non sai perché l'ha salvato. La Torah non dice che Lot era perfetto. Ah, vabbè. Per niente. Comunque, ok, facciamo un ulteriore paragrafo. Tutto quanto quello che abbiamo detto è, come dicevamo prima, secondo Hishtal Shelut, secondo il giudizio che segue tutti i termini, tra virgolette, normali, imposti dalla creazione, da Kadosh Baruch Hu nella creazione. Aval mitzador ensof shelemala mishtal shelut, ma dal punto di vista della luce infinita, divina, cioè dal punto di vista di Kadosh Baruch Hu, così come lui trascende la creazione, sham endin vecheshbon. Lì non c'è il giudizio, non c'è il calcolo. Perché? Perché da quel punto di vista elevato, trascendente, le azioni e i comportamenti dei meri esseri umani non sono neanche presi in considerazione. Non fanno nessuna differenza. E noto fes makom ma'ase hatachtonim. E quindi il flusso che può derivare da questi altissimi livelli trascendentali è quasi infinito, senza considerare appunto dove va a finire. Questo è il grande paradosso. Le ovrei rezzonò, a coloro che trasgrediscono ciò che lui vorrebbe, la volontà di Akadosh Baruch Hu, ci potrebbe essere ribuia shefa, un grandissimo, una grande moltitudine di flusso, shelo al pi cheshbon, senza alcun cheshbon, senza alcun calcolo. Ecco perché troviamo che il profeta dice: derech reshaim tzalecha, la via dei malvagi è segnata dal successo. Le fische hu ma'arich af, perché Akadosh Baruch Hu è paziente. E letteralmente la erech apaim vuol dire paziente. A livello cabalistico, erech apaim, ma'arich af, è un modo di dire che stiamo parlando di un livello, come dicevamo, che è al di là del Cheshbon, al di là del calcolo. Dimmi. Diciamo il bene, no? Questo, diciamo, questa altura, questa... questa rigidità o rigore ritorna sempre sopra e ci viene messa da parte per un domani praticamente, o noi o ci ritorna in sotto e la viviamo, non so come sto a spiegare, o ce la viviamo sempre, cioè, no, non ho capito. Sì, infatti mi sto spiegando. Ok, spiega bene. No, perché ricomincia. Cioè, praticamente tutto quello che tutto le conseguenze di tutto questo uno le vive giornalmente o le vive praticamente al momento del conto finale? Allora, qui adesso stiamo parlando quando si va al di là del conto. Dici dove stanno, esatto. Questo non è secondo il conto. È extra... Quello che parlavamo prima era quando siamo all'interno del conto. Noi, esatto. Quindi, quando noi ci... Cosa stiamo dicendo? Se tu ti leghi alle mitzvot, le mitzvot sono limiti. Questo sì, questo no, sono definizioni. E in base a quelle definizioni c'è un calcolo, ok? Però sei tu che decidi di sottometterti, tra virgolette, tu hai il libero arbitrio. Se invece dici io prescindo da tutto questo, in certo senso esci fuori dal calcolo, cioè sei fuori dai parametri e potresti avere grandissimo successo nel senso materiale della cosa, perché questa è una cosa che marichaf, c'è pazienza, c'è una cosa che può allungarsi, non si sa dove va a finire, come va a finire. Quindi può darsi che non lo si vede l'effetto, non può darsi, è così, non si vede l'effetto sul quotidiano. Mentre invece quando siamo all'interno della cosa, cosa abbiamo detto? Adam nidon bechol yom. C'è un calcolo ogni giorno addirittura. Quindi questo è molto rigoroso da una parte, dall'altra invece è molto flessibile, molto aperto. Questo è proprio il contrasto tra le due. È astratto. Sì, questo è il contrasto tra le due modalità, no? Allora dice, quando si parla di andare oltre al Cheshbon, oltre al calcolo, si trascende tutto questo limite, allora a quel punto arriva il flusso anche a chi non è degno di riceverlo, anche a chi non se lo merita, no? Perché si tratta di qualcosa che non si limita, che non si definisce, perché trascende quei limiti. Quindi dal proprio perché è così elevato, viene così in basso. Ok? Come dire, c'è un flusso che... Ma meno male, direi. E meno male. È come il flusso di un fiume, no? Il fiume cammina, poi cade una foglia su questo fiume e trascende. Quando ci chiediamo perché i malvagi stanno bene, questo è il senso cabalistico della cosa. Perché i malvagi stanno bene? Io sono tanto bravo, invece mi rimane tutto così difficile. E vedi persone che vivono tanto. Quelli che invece stanno benissimo, ma magari non se lo meritano. Sai che hanno anche. Sì. Allora cosa sta dicendo qui? Che proprio perché sei così bravo, c'è un Cheshbon, stai nei parametri, e quindi c'è un calcolo, e il calcolo ha le sue regole. Quello che può sembrare per te bene, forse sarà bene in futuro, forse sarà non è così bene, eccetera. Quello che è malvagio, tra virgolette, è fuori dai parametri. Essendo fuori dai parametri, vive con un flusso che è al di là di tutti questi discorsi. Cioè, non c'è calcolo specifico perché è fuori da queste, dall'attenzione a seguire le regole. Non è che siccome stai fuori dalle regole allora ricevi un regalo. C'è l'inerzia, il flusso. Vuol dire che esistono entrambi i flussi sempre. C'è solo il conto finale. Sì, esistono entrambi i flussi sempre, ok? La domanda è tu sotto quale rubinetto ti metti? Questa è la domanda. Ma non è una cosa che uno se tu esci dal rubinetto normale, definito, che c'è il conto, eccetera, eccetera, in base al comportamento è questo, allora ti apri al flusso automatico, diciamo così. È automatico, non è per merito. Però e quello non è... quello trascende questi limiti. Ovviamente il discorso continuerà e vedremo che non è così semplice. Si lega questo a quello che un po' di tempo fa abbiamo visto in una considerazione del genere, perché ci chiediamo allora chi si comporta in un certo modo comunque, e lì si faceva invece un discorso, una prospettiva diversa, cioè sì, che hanno quello che sembra che abbia un premio subito, tra virgolette, e invece poi non lo avrà nel mondo venire. Sì, sì, sì, sì, questa è la classica cosa che dice la Gemara, che dice la Gemara che per chi ha del bene, sì, cioè tutti hanno qualche bene, anche i malvagi hanno fatto qualcosa di buono, allora vengono ripagati in questo mondo e nell'altro mondo invece scontano la pena della loro malvagità. Contrario, il giusto, che anche ognuno di noi, anche i grandi giusti, hanno qualche pecca, hanno qualche difetto, allora quel difetto viene scontato qui, mentre in un mondo più perfetto, in un mondo più eterno, invece raccolgono i frutti della loro fatica in questo mondo. Sì, questa è un'altra prospettiva di un discorso simile. Esatto, si lega a questo, sì. Ok? Che altro? Ma quello che fa questi peccati, queste cose che dice, si rende conto del risultato? Beh, non sempre. Perché uno si crede che mi conviene andare a fare le cose fatte male, tanto... Certo. Beh, non sempre si rende conto, ma qui torniamo... Fuori dei parametri. No, ma torniamo anche a quello che dicevamo, che in base al tipo della circostanza è relativa anche alla persona. La conseguenza è relativa a tutta la circostanza, a tutto il contesto. Non solamente, come dicevamo, che un altro senso di Heshbon era questo, no? Relativo al contesto, alla persona, alla situazione... Tutto questo viene preso in considerato se siamo appunto nei parametri, che ancora non siamo usciti fuori dai parametri. Concludo solo la registrazione, se Dio vuole proseguiamo la prossima volta.